La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Puntuali come ogni sabato, eccoci qua, la Rosa Purpurea, per raccontarvi tutto il cinema che c'è da Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata tipicamente, diciamo, da alta stagione, perché sono tantissimi film che escono in sala in questa settimana. Sono tanti protagonisti che ascolterete durante la nostra puntata, da Neri Marcore a Gennaro Nunziante. Si giocherà insieme con il film misterioso della settimana. Insomma, mettetevi comodi, perché per un'oretta staremo insieme a parlare di cinema. A parlare di cinema a partire da un grande protagonista del cinema come Oliver Stone e anche da un grande protagonista dei nostri anni, della nostra epoca. Stiamo parlando di Edward Snowden, per alcuni un irresponsabile che ha messo a rischio e a repentaglio il mondo, per altri un eroe che ci ha messo di forza il volto contro le pieghe oscure della security americana, delle nostre conversazioni più private tracciate in maniera sistematica. Era il 2013 quando Edward Snowden ha lasciato il suo impiego alla National Security Agency e ha cominciato a occuparsi, diciamo così, in proprio di questi giganteschi programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti, fino a diventare una sorta di latitante di lusso e, come dicevo, per molti un Robin Hood dell'era digitale. Di tutto questo si occupa con il consueto taglio, con la consueta passione, il regista che tante storie americane ha raccontato, come Oliver Stone. E Snowden è il film che ne è uscito, l'ho visto per noi. Chiara Pizzimenti. Perché vuoi entrare nella CIA? Per aiutare il mio paese a migliorare il mondo. Fonti di ispirazione? Star Wars? Toro? Ok, riproviamo. Perché vuoi entrare nella CIA? A me sembra molto fico avere accesso ai sistemi di sicurezza. In media il test si completa in 5 ore. Metteteci un minuto di più e siete fuori. Finito. Sono 40 minuti. 38. Che faccio ora? Tutto quello che vuoi. Alla CIA non sembra vero di aver trovato il devoto Edward Snowden, che vuole in ogni modo servire il suo paese. Non c'è riuscito per una questione fisica nei Marines, lo può fare ancora meglio grazie alla sua mente geniale di programmatore. All'intelligence e alla National Security non dicono no. Il terrorismo di questi tempi si combatte sul web, senza confini, certamente non di privacy. Abbiamo accesso a tutto, non solo a quello che le persone rendono pubblico. Email, chat, SMS, tutto. Ma quali persone? Tutto il reame, Biancaneve. Si stanno guardando. Sta succedendo qualcosa di troppo sbagliato nel sistema e io non posso accettarlo. È giusto che il mondo sappia la verità. Lo Snowden, che alla fidanzata sembra paranoico, è invece soltanto meglio di chiunque altro informato di quello che è la realtà. Gli Stati Uniti potevano conoscere tutto di tutti, senza autorizzazioni, senza mandati, tutti schedati, senza saperlo, da NSA, CIA e quant'altro, attraverso web, motori di ricerca, telefonia, social. E Snowden è storia, denuncia. Lo fa nascosto a Hong Kong, prima di rifugiarsi a Mosca, con documenti riservati mostrati a un giornalista del Guardian e alla regista che girerà il documentario premio Oscar su di lui, Citizen 4. Vuoi davvero rischiare la pena di morte? Verranno da me e verranno anche da voi. È per proteggerti che non posso dirti nulla. Stai andando via. Non importa che giustificazione dai a te stesso, il terrorismo non c'entra. Il terrorismo è solo la scusa. Il tre volte Oscar Oliver Stone lo racconta partendo dall'incontro con i giornalisti, ma facendo salti indietro a raccontare i passaggi salienti della carriera dell'esperto di informatica che nessun presidente americano, democratico o repubblicano che sia, ha intenzione di perdonare. Una denuncia, quella di Stone. Siamo tutti schedati, sospettati, anche per reati che oggi non ci sono, ma che potrebbero divenire tali. E di Snowden, ben interpretato da Joseph Gordon-Levitt, il regista fa un eroe, raccontando tutto dal suo punto di vista. È l'uomo che mette in discussione i valori americani in cui ha creduto ciecamente. Un po' retorico forse, ma certamente appassionante, e con attori di grande capacità, compreso il cattivo Rhys Ifans. E il dubbio di essere più controllati di quanto ci si renda conto trova molte conferme uscendo dalla sala. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Snowden, il primo dei film di questa settimana. Fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea per parlare con Gennaro Nunziante, il regista dei film di Checco Zalone, per intenderci, che esce con un suo nuovo film che prende le mosse da una serie televisiva italiana di grande successo, si intitola Come diventare grandi nonostante i genitori. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, parliamo di un film italiano che arriva nelle sale in questo fine settimana, seguendo un percorso che è tipico invece di solito di film americani. Stiamo parlando di Come diventare grandi nonostante i genitori. Che cosa c'è di tipico? Il fatto che questo film proviene da una serie TV che è Alex & Co, che gli adolescenti o i preadolescenti conoscono molto bene, e tutto questo appunto diventa film per il grande schermo, con la sceneggiatura di Gennaro Nunziante, che fra poco sentiremo. Ascoltiamo la clip. È il primo caffè che ti preparo, non so come sia venuto. Sicuramente bene. Ok. La verità qua. Senz'altro. Allora? Com'è? Diciamo che puoi migliorare, eh? Vuoi che te lo rifaccio? No, sì, non importa. No, te lo rifaccio. Li ho bevuti anch'io i caffè così, il primo caffè di tua figlia di 13 anni che, come dire, no, è una sorta di cubetto di molibdeno all'interno della tazzina, ma poi piano piano si rifanno, vero Gennaro? Si rifanno, no? Imparano sì, a farlo sì, il caffè. Sì, si rifanno, ammesso che poi se lo rifanno. Gennaro, dicevo, questi ragazzi ai quali mi sembra un po' questo il nocciolo della situazione, riusciamo sempre meno spesso a dire di no, anzi fino a schierarci molto spesso anche contro gli altri loro, come dire, tutori, che sono spesso gli insegnanti, no? Ma innanzitutto vogliamo una specie di primato, noi genitori, e pretendiamo un primato, di voler essere gli unici educatori, e questo la dice già lunga su come siamo messi, perché quello che io avverto, specie quando poi frequento le scuole per incontri di vario genere, è lì che c'è la competizione massima, perché i professori sembrano quasi personaggi che devono soltanto fare didattica e poi sparire, perché gli educatori dobbiamo tornare ad essere noi. Quindi c'è questo elemento che, al di là dei sì e dei no, perché poi è abbastanza relativo, cioè io sono cresciuto meglio con i no, ma attenzione, poi ognuno ha il suo carattere, probabilmente un no ti può anche affossare completamente. Quello che invece io sento che ha inaridito un po' la nostra società, rendendola non più una comunità ma molto più individuale, proprio l'elemento nel quale ogni genitore si arroga questo principio di essere l'unico educatore del proprio figlio. Io invece sono del parere che i nostri figli dovrebbero incontrare molti più educatori sulla loro strada, ma ancor di più che dovrebbe esserci una famiglia allargata, cioè noi non siamo l'unica famiglia dei nostri figli. I nostri figli hanno altre famiglie che incontrano, che sono i loro amici, i genitori dei loro amici. Quindi quando tu condividi un percorso, io credo che gli stai facendo solo un favore. Gennaro, come si porta sul grande schermo qualcosa che nasce sul piccolo schermo? Che lavoro hai fatto proprio sui personaggi, per dare magari quella profondità in più? Hai aggiunto, hai tolto? Come hai lavorato? Guarda, tanto per cominciare, oggi il vero problema che ha il cinema è di portare dal grande schermo al piccolo schermo. Cioè oggi buona parte dei film italiani sono ragionati e pensati per il piccolo schermo. Questo invece è un film che parte proprio al contrario, cioè nel senso che la serie televisiva non c'entra nulla con il film. La serie televisiva ha soltanto prodotto una grande attenzione per questi ragazzi, e tra l'altro il merito va dato a chi ha scritto la serie televisiva, a chi l'ha prodotta, a chi l'ha realizzata, la Disney, Dario Rodino, Piero Crispino, tutta una serie di autori che hanno pensato questa serie. Questa serie a un certo punto è cresciuta tanto, è stata anche distribuita in tutta Europa, in tutto il mondo, e a quel punto c'è stato un grande interesse a realizzarci un film, e la cosa bella è stata proprio quella di voler proprio cambiare l'assetto, cioè volerlo pensare a livello cinematografico e quindi non come un'estensione della serie. E a quel punto Piero Crispino, che era il produttore, mi ha contattato, e anche con la complicità dei miei figli che seguivano la serie, mi ha attratto il progetto, e infatti è una cosa completamente a sé, cioè è cinema, è un racconto che ha sfumature, ha vicende e soprattutto ha un percorso che, ripeto, voglio dire, ha a che fare con il cinema. Ma come direbbe qualcuno, che ci azzecca Matthew Modine, che troviamo con, cioè, uno che ha fatto un percorso clamoroso da Bird, diciamo, da Birdie di Alan Parker a Stanley Kubrick di Full Metal Jacket, come l'avete inserito in questo progetto? Ma guarda, è proprio questo il bello di questo progetto, è stato quello di ragionare senza steccati. Spesso noi ce ne accorgiamo, in Italia si lavora sempre con un gruppo di attori, sono sempre gli stessi ormai, romanocentrici o regionalcentrici solitamente, infatti spesso il nostro cinema è abbastanza regionale, più che nazionale. Invece qui è stato molto bello coinvolgere personalità, persone e artisti di vario genere, ma tutti ben specifici nel loro ruolo. Ad esempio Matthew Modine, che è arrivato con una grandissima professionalità e con un grandissimo amore per il suo personaggio, al punto che è stato partecipe nella scrittura con me, abbiamo fatto un lavoro proprio sul monologo. Cioè, guarda, quando tu incontri professionisti che hanno l'abitudine di lavorare nell'industria cinema, trovi anche molta, molta serietà proprio. Gennaro, ovviamente la tua storia, invece lì sì, da regista, è legata a doppio filo a quella di Checco Zalone. State lavorando a un nuovo progetto? No, adesso siamo, come dire, ci siamo, vogliamo goderci il Santo Natale. Siete in vacanza, diciamo. Siamo in vacanza adesso. Ma dopo le vacanze si ricomincia, no? Perché... Adesso, poi ce l'abbiamo fatta. Grazie Gennaro, ci sentiamo dopo la Befana. Allora, grazie ancora, e ricordiamo, grazie. In sala il film Come diventare grandi nonostante i genitori. Grazie ancora Gennaro. Ciao, grazie ancora. Scienze 6, matematica 3, geografia 6 e lingua 4. Vabbè. L'anno scorso ci avevi insufficiente in tutte le materie. E quest'anno sono in 5! Solo in 5! Ma facciamo un bel brindisi! Sì, ma montiamoci la testa adesso, E allora, dopo aver parlato con Gennaro Nunziante, è arrivato il momento di giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Come lo facciamo uscire? Sei capace di guidare? Più o meno, ma il furgone di mio padre non ha tanti bottoni. Avete sentito una voce bambina, un furgone, un padre, insomma, cercate di sforzare le meningi e arrivare alla soluzione. Il titolo del film, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due bei Blu-ray di questo film che vi aspettano. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso invece torniamo al cinema in sala con Il più grande sogno. Ho sempre pensato che morivo a 33 anni. Anche perché me lessero la mano e mi dissero che a 33 anni mi avrebbero sparato. E mo che sono uscito e ce ne ho 40, mi sto reinventando la vita. La voce che avete sentito è quella di Mirko, 39 anni, appena uscito dal carcere, e lo aspetta un futuro chiaramente difficile da reinventare, futuro che si presenta, sembrerebbe presentarsi, sotto la forma di un'elezione a furor di popolo da presidente del comitato di quartiere, il che autorizza il sogno di una vita diversa, ma poi questo più grande sogno chiaramente è difficile da mettere in pratica quando la vita ti costringe anche a una quotidianità molto molto difficile. Troviamo Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Allora, anche qui un tema che ultimamente il cinema italiano, quello più indipendente, ha affrontato molto spesso, quello del dentro e fuori dalla prigione, quello di una vita da reinventare. Assolutamente. Intanto bisogna dire che qui non è una metafora o il fatto di dire che è Mirko quello che è sullo schermo, perché è davvero Mirko Frezza, cioè è davvero il protagonista di una storia che è vera, che è successa al quartiere La Rustica di Roma, e Vannucci, che è il regista esordiente che porta avanti il film Il più grande sogno, ha deciso con un certo notevole grado di rischio di scegliere il reale protagonista per raccontare la sua storia nel film, un po' anche se in quel caso non era una vera storia, quello che fece Gagliardi con Clemente Russo per Tatanka. E questo dà un grado di verità, un grado di forza al film, che supera anche magari certe piccole imperfezioni, magari un'eccessiva verbosità, anche certo eccessivo didascalismo, perché la forza della storia vera, la forza della storia che esce fuori dal cinema, davvero more than life, è più trascinante, più travolgente di tutto, esattamente come Mirko, che è questa sorta di incrocio tra Cristo e Tarzan, che nonostante abbia avuto ogni momento della sua vita sbagliato, ogni volta ha avuto l'occasione sbagliata, ogni volta ha preso probabilmente anche la decisione sbagliata, non aiutato da un padre che ha pensato solo a se stesso e probabilmente da un quartiere che ha contato su di lui solo nel momento sbagliato, è riuscito, grazie all'unica piccola occasione che gli hanno dato, cioè quella della presidenza del comitato di quartiere, a dare una svolta decisiva alla sua vita. Il più grande sogno però è anche la storia di un grande sogno cinematografico. Questo perché? Perché c'è un produttore, un piccolo produttore della Crino Produzioni, Giovanni Pompili, a cui portano un film che nessuno vuole fare, su appunto Mirko Frezza e sulla sua storia, e decide di farlo. C'è un giovane attore che è molto famoso in questo periodo per aver fatto Non essere cattivo e Sul burro, Alessandro Borghi, che decide, anche perché lo conosce Mirko Frezza, lo conosce anche nella vita, che decide di spendersi e di fare da spalla al vero protagonista, nonostante gli diano all'inizio il ruolo del protagonista, per fare questo film. Alla fine ce la fanno, vanno a Venezia, escono in sala e è un sogno nel sogno. Il film è sicuramente da promuovere perché è una di quelle grandi classiche storie, un po' all'americana, che ti fanno uscire avendo anche più fiducia non solo nel cinema e nella vita, però è anche il racconto di come quello che ti dicono che può sembrare impossibile non lo è mai. Ah no, ma che stai a fare? Ma che ne so, non c'ho il fisico, pare che c'ho il fisico. Tu non vedi il fisico? E sta avanza, sti fianchi, non mi rispecchiano come so dentro, capito? Ma quelli mi servono a me, non te devono rispecchiare. Sì, ma io, capito, io dentro la testa mia c'ho addominali, capito? C'ho le ali, vedi, c'è sta roba qua, no? Cioè, e poi quando mi guardo ne vedo. Ma com'è? Ma perché ce l'hai sotto? E poi Mirko Frezza è davvero una faccia da cinema, insomma, di quella da attore hollywoodiano. E allora, linea alla regia, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Neri Marco Re, Boris Sollazzo ci aspetta, lo ritroviamo poi per parlare ancora delle novità in sala. Restate con noi. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La Rosa Purpurea. E torniamo insieme alla Rosa Purpurea per parlare di un evento che si terrà il prossimo 2 dicembre nell'ambito di un bel progetto che ha per sede e per scenario Fidenza. Stiamo parlando di Mangia Musica. Chi ci ascolta da tanto sa che la Rosa Purpurea è gemellata, diciamo così, con il Mangia Cinema di Salso Maggiore. Bene, sempre Gianluigi Negri, organizzatore questa volta di questo Mangia Musica a Fidenza, serate nel Teatro Magnani di Fidenza con i grandi della musica leggera, ma anche con gente di cinema, perché sennò qua non eravamo nella sede giusta per parlarne. E sarà il 2 dicembre, appunto, protagonista della serata Neri Marco Re, che è al telefono con noi. Ciao Neri. Ciao, bentrovato. Bentrovato alla Rosa Purpurea. Neri Marco Re, nella insolita veste il 2 dicembre di cantante, insolita almeno rispetto, diciamo, alla media delle tue prestazioni conosciute al pubblico, no? Sì, sì, beh, diciamo, rappresento un'anomalia all'interno di questa rassegna che appunto Mangia Musica. Sì, Gianluigi mi ha chiesto se appunto volevo partecipare come musicista, portando la mia chitarra. Ormai la musica e le canzoni fanno sempre più parte delle mie, diciamo, espressioni pubbliche, avendo messo un po' più da parte, diciamo, le imitazioni, e quindi ho aderito molto volentieri, sapendo che poi quella sera potrò così cantare e suonare quelle che sono state magari le canzoni del mio panorama, con le quali sono cresciuto, quelle che sento attualmente, quindi spaziare nella musica leggera dei cantautori, non soltanto italiani, e quindi avere la possibilità di dialogare sul palco davanti a un pubblico che magari, appunto, è interessato a stare lì davanti come fosse un falò estivo su una spiaggia. Ecco, Neri, avrà la forma, diciamo, di teatro canzone, per dirla alla Gaber, o sarà una sorta di concerto proprio? No, sarà proprio una sorta di, veramente, di, come dicevo adesso, di falò, di schitarrata, di canzoni, appunto, una dietro l'altra, con delle chiacchiere per capire magari che cosa hanno significato per me, o magari cosa hanno significato per pubblico, se non quelle canzoni, magari quel cantautore, quell'artista. Quindi è proprio una chiacchierata senza una scaletta precisa. Ovviamente poi ce l'avrò in testa, però è molto, molto libera, e quindi niente di strutturato, e niente che possa assomigliare, diciamo, al teatro canzone o a un concerto. È semplicemente, appunto, una bella serata tra amici con un po' di musica. Sì, ecco, sì. Dovessi scegliere un paio di titoli, perché poi ci incuriosisci, no? Quali sono le canzoni che stanno più addosso alla pelle di un attore? Nel tuo caso, quali sono i brani che sei contento proprio quando prendi la chitarra e li intoni davanti al pubblico? Ma guarda, mi viene adesso, tra le altre cose, da quando mi diverto, appunto, a suonare, c'è anche un gruppo di amici con i quali ci divertiamo a fare concerti, quindi abbiamo anche una cinquantina di pezzi in repertorio, ma tra questi, ecco, quelli che mi piace fare anche da solo, sono, me ne vengono in mente almeno un paio, Cardiologia di De Gregori, N1, e poi Monna Lisa di Ivan Graziani, e poi di Bennato ne ho parecchi, perché è proprio l'artista con il quale ho imparato a suonare la chitarra, e quindi ovviamente le conoscevo tutte fino ai miei 15 anni. C'è un debito di riconoscenza, diciamo, nei confronti di Edoardo Bennato. Sì. E poi ho avuto anche la fortuna di suonarci insieme, quindi è veramente una grande soddisfazione avere, come per te, i Pooh, immagino. Non so, assolutamente, infatti, ci stavo arrivando, esatto. Io mi scateno con i Pooh, chiaramente, tutto il repertorio a memoria, e ognuno ha la sua, come dire, fissa. Esatto. Però anche, non so, Neil Young, oppure... oppure pezzi di Sting, o di Simon & Garfunkel, quindi anche all'estero. Beh, diciamo che sarà una serata variegata, allora, insomma, in questo senso. Sì. Senti, ricordiamo che però poi dietro tutto questo, e anche un invito al nostro pubblico ad aderire, c'è il tentativo di dare una mano per la ricostruzione di Arquata Scrivia. Tu sei marchigiano, le tue origini sono lì, il tuo cuore ha tremato insieme a quella terra quella notte maledetta, e quindi hai voluto metterti in campo anche per questo. Quindi ricordiamolo, quello che si incasserà finirà, l'ingresso, tra l'altro, a un livello, un entry level molto molto plausibile, cioè 5 euro, insomma, ma fate di più, se andate lì fate di più, e insomma, poi tutto questo aiuta una terra che è stata duramente colpita. Sì, hai detto giustamente, aiuta, perché sicuramente la ricostruzione, non soltanto dopo quel 24 agosto, poi ha ritremato il 30 ottobre facendo dei danni indicibili, una terra che sta soffrendo molto, e la ricostruzione sarà molto lunga, quindi è ovvio che stiamo parlando di piccole mollichine che possono sostenere tutti gli sforzi che tantissimi italiani e tantissime istituzioni stanno profondendo, appunto, per aiutare le Marche. Quando mi è stata proposta questa serata, non doveva esserci, doveva essere, appunto, un ingresso libero. Allora ho detto: scusa, sfruttiamola per fare anche una piccola raccolta, mettiamo 5 euro minimo, ecco, come hai detto giustamente tu, è proprio un entry level, ma non si disdegnerà, appunto, chi vorrà donare di più, e quindi è un modo, appunto, per raccogliere un po' il pubblico, un po' io, mettiamo insieme quello che si riesce a raccogliere, e destiniamolo adesso ad Arquata Scrivia, che è stato uno dei primi paesi che, appunto, ha registrato crolli e purtroppo morti. per cui sarà una lunga battaglia, insomma, una lunga lotta per ricostruire tutto. Ne faremo anche altre, ovviamente, di iniziative, e quindi, ecco, gli italiani sono sempre molto molto generosi e sensibili in questi casi. Neri, per chiudere, siamo alla Rosa Purpurea, siamo nel settimanale di cinema storico di Radio 24. Di cinema qualcosa devi dirci? Cioè, stai lavorando a qualcosa? C'è qualcosa per il grande schermo? Guarda, in questo momento mi trovi a Torino e sto girando la terza serie della fiction Questo Nostro Amore, quindi Rai 1, niente grande schermo, ma ormai anche in casa c'è chi ce l'ha grandino e quindi si può anche equiparare. Per quanto riguarda il cinema, invece, qualche settimana fa ho appena finito di girare Smetto Quando Voglio. Non so se sai, a Sidney Sibilia ha girato il 2 e il 3, quindi direttamente la saga. Io sono presente soprattutto nel 3, che poi si chiama, adesso non mi ricordo bene, uno si chiama Reloaded e un altro Revolution, quindi penso di essere in Smetto Quando Voglio Revolution, che uscirà all'interno dell'anno prossimo, però non ti so dire quando. So che il 2 dovrebbe uscire a febbraio. Senti, ti faccio una domanda invece proprio di posizionamento. Da quel giorno in cui Pupi Avati ti ha lanciato come attore cinematografico, che posto occupa il cinema nella tua carriera? Quanto ti senti attore di cinema da 1 a 100 rispetto a quanto ti senti uomo di teatro, imitatore, musicista, perché sei veramente uno poliedrico, ma quanto è grande la fetta del cinema nella tua carriera? Beh, ovviamente avendo iniziato a fare questa professione un po' per caso, ma sicuramente non senza la volontà e l'impegno per farlo, il cinema ha da sempre rappresentato il sogno, quella dimensione attraverso la quale si può anche rischiare di essere eterni, no? Pensiamo a quante opere sono state poi affidate all'eternità e di cui si parla anche dopo la scomparsa dei protagonisti. Quindi è veramente una dimensione che chiunque faccia questo mestiere non può non amare, e la stessa cosa anche per me. Ovviamente sono pieno di gratitudine nei confronti di Pupi e di Antonio Avati, che è stato quello che mi ha segnalato a Pupi, e grazie al cuore altrove mi si sono aperte molte strade. Devo anche dire che, al pari del cinema, che ovviamente si trasforma man mano che si trasformano gli oggetti tecnologici che abbiamo a disposizione, quindi c'è chi ne fruisce anche sempre più attraverso altri mezzi che non siano lo schermo nella sala, che comunque è sempre il grandissimo piacere di chi ama il cinema, ecco, vederlo in quel posto lì. Ormai anche la fiction o i film in TV credo che abbiano la stessa dignità e vengano visti, tra l'altro, da molte più persone, perché a volte purtroppo fai un film anche bello, anche degno, ma magari piccolo, che resta schiacciato dall'uscita di tanti altri film magari americani, quindi in sala rischiano di vederlo in pochi, quindi poi magari attraverso la TV si può recuperare. Neri Marco Re, La Rosa Purpurea, grazie, appuntamento a Fidenza, Teatro Magnani, il 2 dicembre, ti aspettiamo e vi aspettiamo per questo concerto straordinario, nel senso che va veramente fuori dall'ordinario. Precisamente, grazie Franco, un saluto a chi ci ascolta. Sempre un grande piacere ospitare Neri Marco Re. Adesso giochiamo ancora insieme, perché dobbiamo farvi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia, ma quando ho alzato il fucile per sparare ho avuto una sensazione, era come una magia. E allora, se avete indovinato, se avete capito di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano. Il film lo svegliamo fra poco, dopo la viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, parliamo fra poco di un'altra novità in sala. Torniamo con Boris Sollazzo per parlare del film di Amir Naderi, Monte, e ne vale davvero la pena. Prima però una segnalazione: domenica 27 novembre, ovvero proprio domenica sera, verranno consegnati, verrà consegnato a Palermo a Stefano Mordini per il film Pericle il Nero il premio Efebo d'Oro, il premio alla carriera, un premio veramente prestigioso giunto alla 38esima edizione. Il premio alla carriera verrà consegnato ad Agnès Varda, la grande regista francese che è stata un po' il ponte fra la Nouvelle Vague e il cinema francese degli anni 80, Senza tetto né legge, tanto per dare l'idea, moglie di Jacques Demy, una grandissima cineasta. Verrà presentato Cleo dalle 5 alle 7, Cleo dalle 5 alle 7, il film del 62 che fu presentato all'epoca al Festival di Cannes. Tutto questo a Palermo domenica sera. Torniamo invece a parlare dei film della settimana con questa operazione davvero particolare, ma molto molto visiva, molto molto cinematografica, che si intitola Monte. Cugino, questa volta non puoi fermarci. Non voglio seppellire anche loro. Ma perché vuoi stare qui? Qui ci sono solo morti. Questo monte è maledetto da Dio e dagli uomini. Hanno emanato un bando e prima o poi verranno a prenderci. Anche Maria ha preso il malocchio. Il suo latte è diventato amaro. Qui crepiamo tutti di fame. L'ombra del monte ci sta seppellendo. Gli spiriti non mi fanno dormire. Insomma, per una volta questo monte, la montagna, il monte lì davanti non è proprio foriero di notizie positive. In questo villaggio semiabbandonato, appunto ai piedi di una montagna, Agostino e Nina vivono col figlio Giovanni, ma questa montagna fa sì che il sole non illumini mai la loro terra, che è ridotta ormai a una pietraia. Insomma, è la storia del racconto di un uomo, di una famiglia che sfidano appunto questo monte per ottenere la luce. Boris, è un'operazione molto metaforica, però molto cinematografica. Anche questo è un film passato a Venezia in termini visivi davvero affascinante, con la regia di Amir Naderi, che è uno dei più grandi registi iraniani, più affermati. Io lo ricordo già nel 93 con il suo bellissimo Manhattan by Numbers, che stupì a Venezia, ma ha fatto veramente tantissimi film. Cosa l'ha portato in Italia a girare questo film? Beh, il suo naturale nomadismo. Intanto voglio fare una considerazione: Amir Naderi è la dimostrazione che forse la critica cinematografica serve a qualcosa, perché probabilmente senza il successo di critica che ha avuto in Francia, in Italia, ma anche nell'Estremo Oriente, probabilmente Amir Naderi non avrebbe potuto continuare a fare i suoi film particolarissimi, che sono concentrati sull'ossessione, anche la reiterazione, la potenza di immagini che però non sono facilmente raccontabili in una narrazione classica. Lui è uno che, dopo aver lasciato il suo paese natio, l'Iran, è stato a lungo negli Stati Uniti, dove ha raccontato il sogno americano a modo suo, i Reborn, La seconda possibilità, e quanto questo possa diventare invece un'ossessione e un guscio vuoto. Poi ha fatto cut in Giappone e infine, in questo suo giro del mondo, si è fermato in Italia. In Italia fa uno dei suoi film più particolari, Monte, appunto. Già scegliere come protagonista di fatto una montagna enorme, talmente grande che sia il sole che l'acqua vanno a sbattere contro e tornano indietro, sostanzialmente è una scelta molto molto forte. Sceglie un cast tutto italiano, la produzione italiana, sia il cast tecnico che artistico italiano, e la storia è semplice, fin troppo semplice, quasi sconvolgente nella sua semplicità, perché a un certo punto questo paese che avete sentito, insomma, sta uccidendo tutti e spinge tutti ad andarsene, fa sì che rimanga solo questa famiglia di tre persone. Questa famiglia di tre persone piano piano si spegne per colpa del monte, e lui, che è Andrea Sartoretti, lei, Nina, invece Claudia Potenza, molto bravi tutti e due, molto bravi a incarnare questa rassegnata disperazione. Questa rassegnazione non diventa più tale perché il personaggio di Andrea Sartoretti decide che con un grosso martello il monte lui lo può battere, e da qui inizia una seconda parte di film che è forse una sfida cinematografica enorme, nel senso che chiaramente l'ossessione diventa fisica, diventa ripetizione di movimento, diventa qualcosa, no, che in mano a un altro regista diventerebbe la parodia di un film da festival. Nel caso di Naderi non è così, non è il suo film più felice, probabilmente è un film più di scuola rispetto ad altri, però è un film molto molto interessante, perché in un periodo di grandissima standardizzazione dell'immagine in movimento, Naderi ci ricorda che c'è un altro modo possibile di fare un cinema, c'è un altro modo di poter comunicare, c'è un altro modo di fare arte. Non a caso Monte è finito addirittura al MoMA, per intenderci, quindi insomma probabilmente i nostri parametri di giudizio devono essere diversi rispetto agli altri film. Assolutamente, comunque anche con un versante diciamo estremamente cinefilo insomma in questa settimana al cinema, nella quale io voglio ricordarvi anche Yo-Yo Ma, i musicisti della Via della Seta, è un documentario per chi ama la grande musica, è questo straordinario violoncellista cinese di nascita naturalizzato americano che è una vera star a livello mondiale, insomma vada a vederlo perché anche questo è un film proprio che sta su molto bene, molto in piedi come film, al di là dell'interesse di quello che è il tema trattato. Boris, grazie di averci fatto compagnia anche questa settimana, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora siamo adesso alla parte finale, stiamo planando verso la fine della trasmissione, ma prima come sempre dobbiamo risolvere il nostro DVD game della scorsa settimana. Sono l'ultimo che dovrebbe stare qui, banale eccesso di velocità, per il giudice correvo troppo, io, vostro onore, a essere sinceri, è vero, mi avete beccato. E allora si trattava di Angry Birds, il film di animazione è uscito all'inizio di questa stagione con diciamo la scorta di un videogame di grandissimo successo planetario. I più veloci che vincono il Blu-ray sono Massimiliano Tinnirello di Pozzuoli, provincia di Napoli, e Marco Colucci di Trivolzio, provincia di Pavia. A loro arriva il Blu-ray di Angry Birds, che ci racconta così Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, sicuramente per questo film una parte del divertimento sta proprio nel vedere come gli autori di Angry Birds hanno tappato l'incongruità dell'esile gioco, dell'app per smartphone che molti di noi conoscono, facendola diventare un film. La grafica è molto accattivante, soprattutto per i bimbi, e per gli adulti ci sono alcuni riferimenti, tipo blande allusioni sessuali, un'ironia abbastanza di natura crassa, c'è un'aquila che ascolta gli Eagles, per dire, e citazioni cinematografiche anche del tutto fuori contesto. È un divertimento abbastanza politicamente scorretto, in cui la rabbia incontrollabile non è più un elemento di discriminazione, ma diventa la qualità richiesta a un leader per condurre un attacco verso lo straniero, diverso e invasore dei confini. Cosa che tra l'altro negli Stati Uniti ha portato il film a essere letto come una sorta di manifesto pro Donald Trump dalla critica americana. Il DVD e il Blu-ray sono colmi di extra e l'oggettino è veramente meritevole, insomma. Giulio, diamo un'occhiata anche ai palinsesti televisivi della prossima settimana per quanto riguarda i film proposti dalle TV in chiaro. Mercoledì 30 novembre, un film ormai di una dozzina d'anni fa abbondante, di un regista che nel frattempo poi è esploso a livelli assoluti in Italia. Stiamo parlando di Paolo Virzì, Rai Movie a 12:40. Mercoledì 30 novembre propone Caterina va in città. Sì, da Montalto di Castro Caterina si trasferisce con la famiglia a Roma. Qui incontra gente di destra, gente di sinistra, adulti borghesi e poser di ogni tipo. Morando Morandini definì questo film una commedia sulla stronzaggine ed è assolutamente vero. È un incontro tra un'anima pura e un mondo caricaturale, sempre in posa, in cui le idee sono moda e tutto è caricatura. Una commedia all'italiana contemporanea da quello che è ritenuto l'unico possibile erede di questo glorioso genere italiano, quindi Paolo Virzì. Un grande passo indietro invece a livello temporale, ma sicuramente un grande salto per l'umanità cinematografica. Venerdì 2 dicembre alle 2:10 di notte su Rai 3 c'è uno dei capolavori del primo Jean-Luc Godard. Stiamo parlando di Bande à part. Sì, è un noir molto divertente, destrutturato, un dramma in forma di burla e un fuoco di fila di invenzioni cinematografiche. Godard racconta crimini e triangoli amorosi, ma cerca la digressione, la leggerezza, la grazia dei singoli frammenti e la superficie delle cose. Sono celeberrime la corsa per il Louvre lunga 7 minuti, poi rifatta dai protagonisti di The Dreamers di Bertolucci anni dopo, il balletto al caffè e la messa in scena della morte da parte dei personaggi di Billy the Kid. È veramente grande cinema puro. E allora Giulio, grazie per le segnalazioni, buon lavoro a Film TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata, La Rosa Purpurea finisce qui, l'appuntamento è fra 7 giorni, sempre alle 18 su Radio 24 il sabato, per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.